Vendo tutto di Matteo Caccia. Fino a qualche tempo fa non potevo fare a meno del mio computer per lavorare, della mia Vespa per muovermi, della televisione per distrarmi. Poi nella mia vita è successo qualcosa che ha cambiato le mie prospettive e la loro importanza. In quel momento ho deciso, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo una lampada da scrivania. Per avere questi oggetti ho ossessionato i miei nonni, continuando a dire loro che volevo un diario per i miei pensieri e una rubrica per i numeri delle amiche. Il Natale scorso finalmente sono arrivati, uscendo da una scatolina così piccola, in mezzo a tanti altri regali, che stavo per non vederla. Poi l'ho aperta e ho fatto i salti di gioia per mezz'ora, ringraziato i nonni e messo a posto il regalo. Ho scritto 4 numeri di telefono e 2 pagine di diario. Poi quei libretti non sono mai stati aperti. Perché in fondo il miglior diario è la tua testa, almeno fino agli 11 anni. Non si sa perché non inventino i diari da adulti che si dimenticano sempre tutto. Questo è un pezzo di racconto che ha mandato a Vendo Anch'io Marina. Marina, io sono Marina, ho 10 anni e sono in quinta elementare. Sono cintura blu di karate, ho un fratello e una sorella più piccoli. Sono nata e abito a Roma. Desidero di realizzare, se ricaverò dei soldi, unendoli a quelli che ho già, mi comprerò una macchina fotografica. Grazie mille Marina, chiaramente non l'ha spedito lei, l'ha spedito il suo papà. Marina ha 10 anni e questo era... In realtà dovrei dire, questo era tutto il racconto. Non era un pezzo, Marina ha preso alla lettera non più di una pagina e lei ha scritto queste righe. Grazie mille, anche Marina partecipa al concorso Vendo Anch'io, dove avete ancora una settimana di tempo, non di più. Venerdì scade il concorso, venerdì alle 16.30, quindi le mail che arrivano prima delle 16.30, cioè prima della fine del programma, sono valide. Quelle dopo le 16.30 non sono più valide. Sono arrivati oltre 50 racconti che adesso ci tocca pure leggere, quindi continuate a scrivere a vendotutto@radio24.it. mandate un racconto di una pagina di un oggetto che vi volete liberare, di cui volete liberarvi e vendere, una biografia, e mandate un desiderio che volete realizzare. Noi li mettiamo insieme, scegliamo i 5 migliori racconti, i finalisti saranno a Riva del Garda con noi sabato 19 giugno alle ore 22 in Piazza delle Erbe a Riva del Garda. Sceglieremo il vincitore, faremo un'asta degli oggetti, leggeremo i racconti e il vincitore si prenderà i soldi di quell'asta per realizzare il suo desiderio. Vendo tutto @radio24.it. Buongiorno a tutti, sono le 16.10, quasi 11 minuti, oggi è un bel lunedì 7 giugno, boh, detto bello ma... perché boh, mi sono fatto prendere la mano, il tempo non è sto granché, io sono un po' bollito, la Faggin pure, anche Bonini c'ha una faccia che non sembra, insomma l'unico è la Corte che oggi è in piena forma. Oggi si parla però di quei momenti, ne parlavo anche nell'intro perché mi gira in testa da qualche giorno, in particolar modo perché venerdì sera ho incontrato un ragazzo in pizzeria che mi ha detto che ascolta il programma e mi ha chiesto: ma qual è stato esattamente il momento in cui hai deciso di mollare tutto, di vendere tutto? E gli ho detto: vabbè, è quando mi ha lasciato Giulia. Lui: sì, ho capito, mi fa, lo sento il programma, però c'è un momento particolare in cui tu l'hai deciso. E questo momento c'è, chiaramente, ve lo racconterò più tardi, però è di questo che vorrei parlare oggi, proprio di quel momento in cui qualche tempo fa, o magari ieri, o magari 10 anni fa, un anno fa, avete detto basta. 800240024 349-238-6666. Parliamo di tutto, parliamo, anzi facciamo così, che non parliamo delle relazioni sentimentali, lasciamole perdere, parliamo di quando avete abbandonato il lavoro, avete sbattuto la porta e ve ne siete andati. Magari non l'avete sbattuta, però avete detto ok, basta, questa è troppa. Avete lasciato magari una squadra, no? Sapete quando arriva il momento in cui siete stanchi? Perché poi il fatto è che delle volte non serve, no? Proprio un momento particolare. Delle volte si raggiunge il limite e poi basta tanto così che uno dica non ce la faccio più. 800240024 349-238-6666. Anche se vi siete dimessi da una carica, ad esempio, tipo eravate assessori comunali del vostro paese e a un certo punto ha detto: eh no, guardate ragazzi, basta, io me ne vado, e avete lasciato la stanza andandovene via e mollando tutto. Oppure avete abbandonato, che so io, un circolo. Sapete questi circoli spontanei, circolo letterario, potete: no, io questo libro piuttosto me ne vado. 800240024 349-238-6666, perché il racconto di oggi, la lampada che vendo oggi, è legata alla storia di un amico che ha vissuto con me per qualche tempo e a un certo punto ha detto basta, non ce la faccio più, me ne vado. Per vedere la lampada, radio24.it. Per sentire la storia, state qui. La lampada da tavolo. Lampada da tavolo, marca Artemide, modello Tizio, disegnatore Richard Sapper, anno di concepimento 1972. Sistema di bracci e contrappesi che la rende regolabile a 360 gradi. L'alimentatore alla base della lampada genera corrente che arriva alla lampada alogena direttamente tramite la struttura a bacchette e bottoni, senza bisogno di cavi. La lampada non è perfettamente funzionante dal momento che la lampadina alogena manda luce in maniera intermittente. Valore commerciale 230 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. La storia di questa lampada ha a che fare con i lati bui di ciascuno di noi e di come si mostrino nei momenti più insoliti. Dai 20 fino ai 25 anni ho vissuto in una casa insieme ad altre persone. In quegli anni si sono alternati diversi coinquilini, ovviamente, qualche studente universitario, un paio di allievi di scuole di teatro, qualche attore di passaggio a Milano e un apprendista avvocato. Si chiamava Renato, veniva dalla provincia di Imperia ed era una persona buona. Di quelle persone che parlano poco, però dicono cose sensate, che sorridono quando ce n'è bisogno e non lasciano mai la tavoletta del cesso alzata. Roberto si affittava tutta una stanza, da solo, una delle tre. Spendeva 400 euro per avere un po' di intimità, anche se usciva alle 8 del mattino e tornava alle 8 di sera, ed intimità se ne godeva poca. Come tutti i giovani avvocati, sgobbava come un asino e lo pagavano come un lavavetri. Parlavamo spesso di questa cosa dello sfruttamento. Io all'epoca avevo ancora qualche residuo di idealismo e sostenevo che doveva ribellarsi, rivendicare i suoi diritti. Tutte quelle cose che si pensano quando si pensa che il mondo sia un posto giusto. Lui chinava la testa da una parte, diceva che in fondo gli serviva per fare esperienza, che tutti lo devono fare e che il suo capo lo stimava. Era un vecchio avvocato milanese. Passava in studio un paio di volte a settimana, ma ormai stava lasciando tutto nelle mani del figlio, Gianmaria. Io Gianmaria l'avevo conosciuto all'aperitivo del compleanno di Renato. Era uno di quei giovani avvocati, di quelli con le camicie a righine e le scarpe a punta, di quelli che non hai la sensazione che l'avvocatura sia una vocazione, ma un buon modo per tirare a campare. Per tutta la sera non parlò d'altro che delle sue vacanze a Formentera e del problema che aveva la capote della sua BMW. Insomma, un pirla. Uno di quelli che speri non ti diano la precedenza ad uno stop, per potergli dare serenamente del cretino. La cosa più fastidiosa, però, era che nonostante avesse la stessa età di Renato, lo trattava come un ragazzino, quasi con sufficienza. Io quella sera feci di tutto per farlo innervosire. Mi mise a parlare di giurisprudenza senza saperne nulla, ovviamente. Dissi che l'avvocato era un mestiere nobile, paragonabile al medico o al filosofo. Un mestiere che aveva a che fare con la giustizia, la libertà degli individui, e che prima di scegliere un mestiere come questo, ci si dovrebbe domandare se si intende mettere il proprio tempo al servizio di un valore così alto. Andrea si mise a ridere, disse che era un mestiere come un altro, e Renato lì ebbe un colpo d'orgoglio. Gli disse che non era così, e che persone come suo padre lo sapevano bene. La serata si concluse con un po' di tensione, e io e Renato ce ne tornammo a casa. Dopo due mesi, il vecchio avvocato morì. Questa lampada ha a che fare con i lati bui di Renato e di come la morte del suo vecchio capo li illuminò. Pochi mesi dopo che l'anziano avvocato mancò, il figlio Gianmaria ne prese il posto, come in una stirpe regale. Renato decise di licenziarsi, un po' perché aveva trovato un altro studio, ma soprattutto perché, anche se non l'ammetteva, non avrebbe sopportato i comandi del figlio cretino. L'ultimo giorno di lavoro, Renato tornò a casa con uno scatolone. Io ironizzai sul fatto che solo nei brutti film americani le persone che lasciano l'ufficio riempiono una scatola con le cose della loro scrivania, ma che nella realtà non succede mai. Lui mi disse che infatti avevo ragione, non si trattava delle cose della scrivania, ma di una lampada di design. Ora io non ci capisco niente di design e di architettura, so solo che se una cosa è bella si vede, e spesso una cosa è bella anche perché è facile da usare e ti aiuta invece che ostacolarti. Appena vedi questa lampada capisci perché è un oggetto di design. perché vedi facile una cosa difficile. Gli chiesi se era una sorta di regalo di fine lavoro e lui mi rispose che era una liquidazione. Una liquidazione che si era preso da solo, però. Questa lampada apparteneva al vecchio avvocato, però da tempo l'aveva abbandonata nella cantina dell'ufficio. Gliela avevano regalato una nuova. Nessuno sapeva dell'esistenza di questa lampada, ma Renato la vedeva ogni volta che portava giù i faldoni, quelli pieni di pratiche scadute, e sapeva che se l'avesse vista Gianmaria se la sarebbe presa lui. Mi disse che la lampada non funzionava nemmeno benissimo, che forse aveva un problema di tensione o, che ne so, la lampadina da cambiare. Ma tant'è, prima di uscire era sceso in cantina con una scusa, si era infilato la lampada in una busta e se l'era portata via. Ecco, io in quel momento guardai questo ragazzo che non aveva mai preso una materia a settembre, che non aveva mai tradito le sue fidanzate o disobbedito ai propri genitori. Lo guardai mentre teneva in mano una lampada che non era sua. Pensai che a volte gli oggetti ci cambiano. Pensai che questa era una piccola rivincita che si era preso sul figlio di papà, con lo studio tutto per sé e le scarpe a punta. Pensai che solo nei brutti film americani i personaggi sono tutti buoni o tutti cattivi, in modo che chi guarda si senta al sicuro, ma che qua fuori non è così. Che tutti noi assomigliamo meno di quanto sembri a quello che mostriamo agli altri, forse anche a noi stessi. Pensai che in fondo anche Renato fosse un po' stupito di quello che aveva fatto, e per la prima volta lo vidi sorridere senza un motivo, o almeno senza un motivo evidente. Accese la lampada che mandava luce a intermittenza e andammo a preparare la cena. Quando un anno dopo Renato tornò a Imperia, me la regalò. Forse perché non aveva più spazio in macchina, forse perché preferiva tenere nascosto il suo angolo buio. E da allora è con me, anche se continua a mandare luce a intermittenza. Eppure, nonostante il vecchio avvocato e i nostri angoli bui, questa lampada è in vendita. Il suo valore è di 230 euro. La base d'asta sono 99 centesimi. Se ve ne siete andati e volete raccontarmi come avete fatto, 80024 0024. Insegnavo ginnastica artistica agonistica alla Gymnasium di Treviso. Il vaso era già pieno da parecchio, ma non ero pronto a cambiare vita. Fino al primo febbraio, immagino il 2010, quando dissi basta al presidente e il giorno dopo alle ginnaste. Ora guido un camion. Questo è un bel modo per prendere e andarsene come cantano gli Smith. Sono le 16:22 minuti, questa è la di 24, 80024, 0024, 349-238-6666. Sentiamo come ci si è liberati di quel fardello. Partiamo da Ferrara con Roberto. Pronto Roberto? Ciao Matteo, sono Roberto. Ciao, bene, io sono Matteo, quindi siamo noi due. Possiamo andare avanti adesso. Ascolta, allora io lavoravo in un'azienda da una decina d'anni all'ufficio estero. A un certo punto mi hanno cambiato di posizione, per giustamente, e mi sono messo a fare altre cose. Un mio vecchio cliente, che ormai cliente amico, ha ricevuto per due volte un ricambio sbagliato e mi ha chiamato a casa dicendo: Roberto, per favore aiutami, fai qualcosa che sono nei guai. Io l'ho fatto, ho fatto in modo che ricevesse i cambi sbagliati, la direzione l'ha saputo, ha mandato una lettera al cliente dicendo: non succederà più questo, però tu non contattare più Roberto, e me l'hanno mandato per copia conforme. Quando l'ho letto ho detto: no. Cioè, no. Quindi fammi capire Roberto, tu semplicemente hai fatto una cosa che non era nel tuo ruolo, loro se la sono presa e tu se la sei presa più di loro, te ne sei andato. Cosa fai adesso? Ma adesso sono passato in un'altra azienda a fare un lavoro più semplice, non così di soddisfazione, però anche tutto sommato non mi lamento di quello che faccio. Quando, delle mie scelte. Quando è successo esattamente? È successo un 7-8 anni fa. Senti, l'ultima cosa, quanto tempo ci hai messo a decidere basta? Ma guarda, allora, io ci ho messo il tempo di leggere quel fax, era un fax addirittura, sì, che mi hanno mandato. Tu pensa, esistevano i fax, tanti anni fa. Quindi il tempo della lettura della lettera. E ho detto, vabbè, adesso da questo momento sono fuori. Ci ho messo alcuni mesi per convincere a casa, per ok, però l'hai deciso in quei 3 secondi lì. In quei 3 secondi lì ho detto, no, cosa sto a fare qua? Grazie Roberto, buona giornata. Ciao, alla prossima. Congratulazioni. Ciao, grazie mille, ciao. Andiamo a Roma da Fabio. Pronto Fabio? Buongiorno, ciao. Ciao, buongiorno. Beh, la mia storia non è molto diversa da quella che ho appena sentito, cioè? Solo che cambia il settore, ma i tempi di reazione più o meno sono stati quelli, perché io facevo il giornalista in un quotidiano, Possiamo dire quale? Ha cambiato direzione. Prego? Possiamo dire quale? Sì, sì, Libero. Ok. Con Feltri direttore. Insomma. Sì. E con l'arrivo di della nuova direzione, praticamente venni sostituito come Mansioni, cioè la cultura che è la mia il mio settore di riferimento, sì, venne passata ad altri e io venni destinato a vari incarichi, per cui un giorno mi occupavo di combattimenti di cani, il giorno dopo della crisi degli ospedali. Che è quella che nei giornali chiamano cucina, più o meno, o mi sbaglio? No, cucina, io ero il jolly di redazione, ogni volta che c'era una cosa che non okay, si sapeva, la facevo io. Ok. Portando, devo dire onestamente, sempre a casa il lavoro, ma tu sai perfettamente che a un giornalista, se tu gli togli gli agganci e l'agenda, quando sì, boh, lo immagino, guarda, lo immagino perché non sono un giornalista, però vedo il lavoro qui. Senti, qual è stato quindi l'articolo? Il fatto scatenante è che un mattino, dopo mesi chiaramente di tribolazione condivisa anche da altri colleghi che poi mi hanno seguito mesi dopo, sì, nella mia stessa strada, un mattino ero in motorino sul Lungotevere che stavo andando in redazione, mi arriva una telefonata del vice della redazione romana, ti chiede cosa? Un noto giornalista del TG1, e mi fa: dove sei? Sono sul Lungotevere, inverti la rotta che devi correre, mi sembra, a Campobasso, che c'è una protesta di genitori perché c'è la maestra dei loro bambini che puzza e non vogliono mandare i bambini a scuola. Quindi la notizia era la maestra che puzza. Senti, quanto ci hai messo? Eri in mezzo al traffico, perché devo salutarti. Eri in mezzo al traffico? Quanto ci hai messo a deciderlo? Un nanosecondo. Ok, cosa fai adesso? Continuo a fare il giornalista, ma con un giornale che mi sono fatto io, parlo di storia e mi occupo di storia anche in TV. C'hai un sito? Un sito, sì. Dai, dicelo. Storiainrete.com. Grazie Fabio, buona giornata. Grazie a voi. Ciao, alla prossima. Grazie. Andiamo e chiudiamo con Alessio da Livorno. Velocemente Tiziano mi dice di chiudere. Ciao Alessio. Ciao, ascolta, dopo 2 anni che lavoravo in un ristorante, ottimo rapporto con il proprietario, dice dai, ok, ti faccio il contratto a tempo indeterminato, insomma, vediamo, insomma. E i mesi passavano e a un certo punto arriva il nipote e per chiaramente motivi di parentela e non certo di merito tocca a lui il contratto. Io insomma questa cosa mi è stata un po' qua, il giorno dopo sono andato io e ho fatto: guarda Fabio, vaffanculo, vado a fare il fotografo. grazie Alessio, alla prossima. Prima o poi sarebbe arrivata, prima o poi, giustamente. 3 anni fa ho mollato il lavoro dopo 20 anni per vendere oggetti su eBay. Non sono io, ma è Paolo. Però io ringrazio Laura, Tiziano, Alessandro e Pietro Lacorte. La lampada è sul sito di Radio 24 o sul profilo Facebook. Domani vendo un kazoo, che è uno strumento a fiato, più o meno. Voi invece non fatevi cambiare dagli oggetti, che alla fine anche una lampada è solo una lampada. Love, love, love, wherever.